Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola, quarta favola della sesta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia C. La signora impose a Lauretta, che sedeva al lato di Vicenza, che l'ordine seguitasse, ed ella, baldanzosamente, volto il suo caro viso verso il bembo, disse: «Signor Antonio, sarebbe gran vergogna se voi, tutto piacevole e tutto amoroso, non raccontaste alcuna favola con quella buona grazia che voi solete. Io per me la racconterei volentieri, ma niuna mi sovviene che piacevole e ridicolosa sia. Pregovi adunque che invece di me fate l'ufficio, e di questo sarovvi sempre tenuta». Il bembo, che in quella sera non pensava a favoleggiare, rispose: «Signora Lauretta, quantunque a tale impresa sufficiente non mi trova, pur perché ogni vostra preghiera reputo comandamento, accetterò tal carico e sforzerommi, se non in tutto, almeno in qualche parte, di soddisfare al desiderio vostro». E presa buona licenza dalla signora, così a dire incominciò. Favola quarta. Tra tre venerande suore d'uno monastero nacque differenza qual di loro dovesse essere badessa, e dal vicario del vescovo viene determinato quella dover essere, che farà più degna prova. Quantunque graziose donne la modestia sia laudevole appresso a tutti, niente di meno molto più laude vuole la giudico quando ella si trova in un uomo che conosca se stesso. E però con sopportazione di queste mie madonne racconterò una favola non meno arguta che bella, la quale, ancor che alquanto ridicolosa sia e disonesta, sarà però da me narrata con quelle convenevoli ed oneste parole che si richieggono. E se per avventura in parte alcuna il mio ragionare offendesse le caste orecchie vostre, chiegole perdono, pregandole che ad altro tempo contra me riserbino il castigo. Trovasi nella nobile città di Firenze uno monastero assai famoso di santità e di religione, il cui titolo ora con silenzio trapasso per non guastare con siffatta macchia il suo glorioso nome. Avvenne che la badessa di quel luogo si infermò e, giunta al termine della vita sua, rese di spirito al suo creatore. Morta dunque e solennemente sepolta la badessa, le suore fecero sonare a capitolo, e tutte quelle che avevano voce si raunorono in quello. Il vicario di Monsignor lo Vescovo, che era uomo prudente e savio e che desiderava l'elezione della nuova badessa giuridicamente procedere, fece motto alle suore che sedessero. Dopo, in tal modo le disse: «Donne venerande, voi chiaramente sapete che ad altro fine non siete qua raunate, se non per fare lezione di una che sia capo vostro. Se così è, voi per conoscenza vostra eleggerete quella che vi parrà migliore». E così di fare tutte le donne risposero. Avvenne che nel monasterio trovavansi tre donne, tra quai nacque grandissima differenza qual di loro dovesse esser badessa, perciò che ciascaduna di loro era molto favoreggiata dalle suore e riputavasi per assai rispetto alle altre superiore. E però ciascaduna di loro desiderava esser badessa. Mentre che le monache si preparavano di far la elezione della nuova badessa, si levò in piedi una delle tre donne, suor veneranda chiamata, e voltatasi alle suore, così disse: «Sorelle e figliuole da me amate molto, voi chiaramente potete comprendere con quanta amorevolezza io sempre abbia cotesto monastero servito, che già ne sono venuta vecchia, anzi decrepita. Onde, per la lunga servitù mia e per l'età, mi parrebbe convenevole che io fosse per vostro capo eletta. E se non vi muovono ad eleggermi le fatiche sostenute e le vigilie fatte nella gioventù mia, muovevi almeno la vecchiezza, la quale deve essere sopra ogni cosa sommamente onorata. Voi vedete che poco mi resta a fornire il tempo di mia vita, considerate che tosto darò luogo ad un'altra. E però, figliuole mie, mi darete questa breve allegrezza, riducendovi a memoria i buoni consigli che sempre vi ho dati. E dette queste parole, lagrimando tacque. Finito che ebbe suor Veneranda di parlare, levossi in piedi suor Modestia, dieta seconda, e in tal maniera disse: Madri e sorelle mie, voi avete apertamente udita e chiaramente intesa la proposta di suor Veneranda, la quale, avvenga che sia la più attempata di alcuna di noi altre, non però per mio giudicio la dovete leggere in vostra badessa, perciò che ella è oggimai di tale età che più della scempia che della savia tiene, e piuttosto dovrebbe essere retta d'altrui che essa noi altre reggere. Ma se voi con maturo giudizio considerarete la grandezza e la dependenza mia e di che legnaggio nata sia, certamente per debito di conscienza alcun'altra che me non farete badessa. Il monasterio, sì come ciascaduna di voi può sapere, è molto vessato da liti e da bisogno di favori. Ma qual favor maggiore potrebbe il monasterio nelle sue occorrenze avere che quello di parenti miei, i quali, essendo io capo vostro, porrebbero la vita, nonché la roba, per quello. Appena non era suor Modestia al suo luogo assisa, che suor Pacifica si levò in piedi e in tal guisa riverentemente parlò: Mi persuado, venerabili sorelle, anzi certissima mi tengo, che voi, come donne prudenti e savie, prenderete ammirazione non picciola che io, pur l'altrieri venuta ad abitare questo luogo, mi voglia agguagliare, anzi preporre a queste due nostre onorande sorelle, le quali di età e di prosapia mi sono superiori. Ma se con gli occhi dell'intelletto saggiamente considerarete quante e qual siano le condizioni mie, senza dubbio voi farete stima maggiore della gioventù mia che della loro vecchiezza e parentado. Io, siccome cosa a voi tutte manifesta, portai me con amplissima dote, con la quale il vostro monasterio, che già era per antichità tutto distrutto, e ora dalle fondamenta sino al tetto rinnovato. Taccio le case dei poderi co' denari della mia dote comperati, di quai ogni anno ne cavate grandissime rendite. Per queste adunque d'altre condizioni mie, e per ricompensamento di tanto beneficio, quanto ricevuto avete, me in vostra badessa eleggerete, perciò che il viver e il vestir vostro dalla mia dote non altronde dipende. E così detto, se ne andò a sedere. Compiuti che ebber le tre suore i loro sermoni, il vicario di Messer lo Vescovo fece tutte le donne ad una venire alla presenza sua e scrisse il nome di colei che ciascaduna di loro voleva per sua conscienza fosse abadessa. Compiuto il dar di voti, tutta tre rimasero negli voti uguali, né tra loro era differenza alcuna. Onde, tra tutte le monache, nacque grandissimo contrasto, e chi l'una e chi l'altra e chi la terza per suo capo voleva, né per maniera alcuna che tar si potevano. Il vicario, vedendo la lor dura ostinazione, e considerando che ciascaduna delle tre suore per le sue buone condizioni tal dignità meritava, pensò di trovar via in modo che una di quelle tre, senza dar materia di turbamento alle altre, rimanesse badessa. E chiamate le tre donne alla presenza sua, disse: Madre mie dilette, io ho abbastanza intesi le virtù e condizioni vostre, e ciascaduna di voi per le degne opere sue meriterebbe essere abbadessa, ma tra queste venerande suore è grandissimo contrasto nella elezione, e i voti egualmente procedono. Però, acciò che in amore e in tranquilla pace vi conserviate, io vi proporrò nello eleggere la badessa un modo, il quale, come io spero, sarà di sì fatta maniera, che al fine tutte rimarrete contente. Il modo adunque è questo. Ciascaduna di queste tre mie madri, che desiderano aspirare all'onorato grado, s'ingegnerà tra 3 giorni di far nella presenza nostra alcuna cosa che sia laudevole e degna di memoria. E qual di loro tre dimostrerà opera di maggior gloria e virtù, quella fia da tutte le suore concordevolmente eletta, prestandole la riverenza e l'onore che se le conviene. Piacque assai alle donne la determinazione di Messerlo Vicario, e così tutte ad una voce promisero di osservare. Venuto il determinato giorno e raunate tutte le suore nel capitolo, Messer lo vicario fece a sé venire le tre suore, che alla balzea dignità salire volevano, e interrogolle se pensato avevano ai casi suoi, facendo alcuna gloriosa dimostrazione. Esse unitamente risposero di sì. Postasi tutte a sedere, suor Veneranda, che era più attempata delle altre, si mise in mezzo del capitolo e trasse fuori un ago da maschino che era fitto nella nera cocolla e, levatisi i panni dinanzi, in presenza del vicario e delle suore, si minutamente orinò per lo forame dell'ago che pur una gocciola non si vide a terra cadere, se prima non era per lo forame passata. Questo vedendo, messer lo vicario e le donne, tutte pensarono costei dover essere la badessa, né poter farsi cosa che di quella fosse migliore. Indi levossi suor Modestia, che era la seconda d'età, e messasi in mezzo del capitolo, prese un dado con cui si giuoca, e posero sopra un scanno. Dopo prese 5 granella di minuto miglio, e posere sopra i 5 punti del dado, assegnando a ciascun punto il grano suo. Poscia alzò se panni di dietro ed accostatasi con le parti posteriori al scanno sopra il quale giaceva il dado, mandò fuori del forame una rocchetta sì grande e sì terribile che fece il vicario e le donne quasi tutte spaurire. E quella rocchetta, ancor che uscisse fuori del forame con grandissimo soffiamento, fu non di meno tratta con tanta virtù ed arte che il granello di mezzo fermo al suo luogo rimase, e gli altri 4 disparvero che non furono più veduti. Questa prova non parve al vicario e alle donne minore della prima, ma stettero cheta ad aspettare la prodezza di suor Pacifica, la quale, appresentatasi nel mezzo del capitolo, fece una prova non da vecchia, ma da donna virile, imperciò che la trasse fuori di seno un duro osso di peschio e gettollo in alto, e subito alzò sei panni e quello prese con le natiche e sì fattamente lo strinse che lo ruppe e fecero venire non altrimenti che minuta polve. Il vicario, che era prudente e savio, cominciò con le donne maturatamente considerare le prodezze di tutta tre le donne e vedendo che non se ne poteva aggiungere, tolse tempo a pronunciare la definitiva sentenza. E perché negli suoi libri egli non seppe mai trovare la decisione di questo caso, il lasciò irrisolubile, e sino a questo giorno ancora la lite pende. Voi adunque, sapientissime donne, darete la sentenza, la quale per la grandezza della cosa io non ardisco proferire. Fine della storia. La favola dal bembo raccontata diede più agli uomini che alle donne materia di ridere, perciò che elle per vergogna ponevano il capo in grembo, né ardivano sollevarlo. Ma gli uomini, or una cosa, or un'altra, sopra la raccontata favola dicevano, e piacere non picciolo ne prendevano. La signora, veggendo gli uomini sconciamente ridere e le donne come statue di marmo rimanere, comandò che ognuno tacesse, né più si ridesse, e che il bembo con l'enimma l'ordine seguisse. Ed egli, che aveva detto abbastanza, voltossi alla vaga Lauretta e disse: «Il tocca ora a voi, signora Lauretta, raccontare l'enimma. Se noi vi abbiamo contentato in una cosa, non vogliamo contentarvi nell'altra». Ed ella, che non volse far altra resistenza, perché il debito non lo portava, allegramente così disse: «Una ve ne dirò di molta stima, quantunque paia più sozza che oscura. Il mio compagno resta, io scendo in cima, ed una cosa molto soda e dura nelle man prendo, onde la bagno prima. Poi la presento a mezzo la fessura, e tanto in su e in giù la meno, che io perfettamente faccio il fatto mio». Tutti affermarono non essere stato ben bello l'enimma da Lauretta raccontato che la favola dal bembo recitata. E perché pochi l'intesero, la signora le comandò che l'interpretasse, la quale, senza interporre indugio alcuno, disse: «Erano duo che volevano segare un grossissimo trave. Uno prese in mano la siega, che è molto dura, e se ne andò in alto. L'altro, essendo al basso, la unse con l'olio, indi la pose nella fessura della trave. E l'uno e l'altro compagno, tanto su e giù la mena, che l'opra si compisse». Piacque a tutti la sottile interpretazione del bell'enimma. Fine della quarta favola della sesta notte. Registrazione di Silvia C.